8. Ascolta e controlla. 1. Le soluzioni sono molte e facili. 2. Il ristorante è buono e conveniente. 3. Il maglione è caldo e elegante. 4. La comunicazione è chiara e importante.